giro con il dito sullo scotch. Giochi di gambe nella box. Chiedi ai miei amici come sto. A casa non ci torno più. Dalla fortuna schiaffi e carezze. Entra un raggio di luna dalle finestre. È mio padre che dice che mi protegge. In questa grande esplosione siamo le schegge. Non voglio niente di speciale. Non voglio niente di...